Qui siamo per quanto mi riguarda, al terzo anno, nel senso che questo è il terzo di un percorso, il terzo appuntamento di un percorso organizzato 3 anni fa. Questa è la mostra personale di Bettina Buch, e la mostra si chiama Finding Form e in qualche modo celebra il lavoro di un'artista scomparsa prematuramente, ma celebra 2 decenni di lavoro, quindi un tempo sufficientemente lungo per fare discorso attorno a quella che considero una grande artista. Partirei a raccontarti questa mostra, se posso, dal Certo. titolo, Finding Form, dove trovando la forma, dove questo gerundio sta un pochino, o rimanda un pochino all'idea di una scultura sempre in divenire, che non trova mai diciamo così, un'identità stabile. E poi il gerundio rimanda anche all'idea della vita proprio, della vita dell'artista, come di una inesauribile ricerca della forma e di una forma che è in qualche modo capace, no, di accogliere il divenire della vita. La terza cosa è che Finding Form ci sembra un titolo adatto anche perché in qualche modo rinvia a un atteggiamento dell'artista, che è quello sempre di guardare un pochino nelle zone laterali, marginali, guardare sempre le cose più impensate, ma impensate perché ordinarie. Se uno cammina la mostra, nota che i materiali sono materiali che lei usa, i suoi materiali di lezione, sono materiali ordinari per la più parte. E quindi quando dico ordinari parlo della plastica, parlo del cartone, parlo del polistirolo, parlo della gomma piuma. E la cosa che per me era molto importante è che questi materiali ordinari risuonassero in più punti, costruissero delle relazioni. Noi abbiamo costruito questa mostra, questo breve racconto, no? Non esaustivo naturalmente, del lavoro di Bettina Buch, attraverso delle parole, no, che ci sembravano interessanti per, diciamo, mettere insieme o mettere attorno a queste parole, a questi nuclei, alcuni lavori. La prima, direi forse la più importante, è corpo, ma direi corpo e scultura quasi come un'unica parola, no? L'idea che corpo e scultura si contagino, si contaminino reciprocamente, l'idea che la scultura sia un prolungamento del corpo. Non so, è molto forte questa sensazione quando uno guarda il video che noi abbiamo scelto come baricentro della mostra. Ecco, questo è sicuramente un lavoro germinale rispetto ad altri che sono in mostra, e poi attorno appunto abbiamo questo itinerario di parole. Non so, un'altra, stavo pensando, importantissima è postura, no? Postura come anche messa in discussione o sottolineatura di quella questione fondamentale della scultura, che ha a che fare con la verticalità, quindi con l'articolazione basamento-scultura. Entrando, la prima cosa che lo spettatore vede è questo cumulo o assemblaggio di Sì. scatole, di scatole di cartone, che però il pubblico identifica immediatamente come materiale da trasporto. Anche questo aspetto è molto importante, cioè l'idea che ci siano dei materiali in mostra che apparentemente sono poveri, ma diventano scultura perché intrattengono con la scultura un dialogo esclusivo, sono materiali da trasporto, no? Quindi anche lì. Quindi c'è una motilità. Sì, questa idea, no? È proprio questa, è presente in molti lavori, e in quel lavoro, oltre che motilità, componibilità anche, no? Perché quel lavoro può entrare nello spazio in tanti modi diversi. Ma ecco, quel lavoro, quelle scatole, la forma di quelle scatole, la dimensione di quelle scatole deriva dalla replica di alcuni basamenti, che sono basamenti delle sculture di Rodin al Victoria and Albert Museum, e quindi ovviamente mettono in discussione questa idea di basamento come figura proprio della postura o verticalità in scultura. E poi ancora la gravità, ecco, questa è un'altra cosa, il collasso, la caduta, no? Quasi come una specie di contraltare della postura. E in molti lavori è presente sono mossi, diciamo così, da questa forza, e quindi sono a terra o in procinto di essere a terra, cioè questo lavoro che parla moltissimo del divenire della scultura, della forma instabile o della gravità, che sono queste. Lavoro perfino pericoloso, nel senso che il pubblico non deve avvicinarsi troppo, ma può farlo se vuole, naturalmente. Sono queste 3 colonne che sono a fianco appunto al lavoro con le scatole di cartone di Certo. cui ti parlavo prima, e sono 3 colonne costituite da questa tela sottile con uno strato di comuni piastrelle, no? Quelle che si usano per le cucine bianche, Certo, per le cucine sì, per i bagni, rivestimenti privati, sì. destinate quindi a partire con la postura di colonne, no? Ma piano piano a cadere, perché proprio trascinate a terra dal peso e quindi dalla forza di gravità, dal loro stesso peso. Quindi ecco, ci aspettiamo che anche la mostra possa cambiare, nel senso in cui ti ho raccontato in maniera assolutamente esaustiva. Io intanto che ascoltavo le tue parole mi veniva in mente il parallelepipedo di Kubrick. Certo. Ti ringrazio tanto per questa conversazione e buona giornata.